oltre a queste tre cose che non viene normalmente sottolineato in questa occasione, c'è questa che chiamo enigmistica, però quando si dice enigmistica la gente pensa alla settimana enigmistica, non dice storia, enigmistica è una cosa grandiosa, gli acrostici, non so, viene in mente per esempio tutti i giochi che dei costruzionisti tipo Derrida fanno con le parole, il suono, ecco, io non so, io non partecipo tanto, rimango stupefatto di fronte all'abilità, però non so bene dove si va a parare. Lo voglio sottolineare però perché il libro ne è pieno e questo è, diciamo, stato uno dei punti di maggiore difficoltà, anzi un piccolo episodio, tanto per alleviare, noi cominciamo molto fortemente con quella scorretta a lavorare, individuando tutte le cose. Dalco Frater, che all'epoca non conoscevamo, poi siamo diventati amici, si irritò enormemente a un certo punto, ma com'è possibile? Questa era la prima traduzione in altra, non in inglese, quella italiana, la tedesca e la francese vennero dopo. E che non mi dite niente, io non sono, ci viene moltissimo più se metto il testo. E noi gli dicevamo, guarda, noi abbiamo fatto queste cose qui, e lui aveva una copia annotata, in cui, preziosa, in cui, la copia inglese del Basic Book, in cui c'era la spiegazione di tutti i giochi di parole che diavolo significasse. Io vi confesso che in occasione di questo simpatico incontro qui, l'ho riguardato un po', e alcuni me li sono dovuti ricostruire, sono veramente, uno di questi è il contracrostipunto, che è l'acrostico che si legge al contrario con due livelli di acrosticismo. E perché lo metto qui? Perché dopo che lui scoprì che la sua copia annotata, cioè le sue intenzioni, erano state da noi capite per il 97,3%, tanto per dire, allora diventammo amici e inserì una nuova figura. Questa figura non c'è nell'edizione inglese, c'è nelle traduzioni. Questa coppa G è una coppa appartenuta a Bach, non si chiama coppa G, G viene battezzata nel dialogo contro questo punto dalla signorina Tartaruga, adesso la conosceremo, e non ho neanche, insomma, riguardando non so bene se questa è G perché la proposizione gödeliana viene chiamata G o perché G è Sol ed è quinta, è una quinta giusta e quindi la quinta giusta di una cosa. Allora, vi faccio brevissimamente a due, questo qui è gentilmente anche graficamente tra le cose, questo è il mio nome e cognome. Allora, se voi guardate un pochino, non so se si vede il blu e il viola, si distinguono, cioè inizia in blu e finisce il Giuseppe è scritto in blu e il trottore è scritto in viola, ok? E naturalmente questo è una sorta. Tutti sono ricordo che questo è un palindromo eidetico, non simbolico, anche tutte e due le cose insieme. Questo è quello rivoltato, più o meno la stessa cosa. Purtroppo questa presentazione doveva arrivare con una rotazione che era molto divertente, vi siete persi il divertimento. Perché quindi problemi, insomma, quando gli informatici parlano ci sono sempre problemi. Personaggi dei dialoghi, altra cosa di questi dialoghi che vi ho detto a me, ma attenzione alla verità, no? Perché la tartaruga, noi l'abbiamo fatta, la signorina tartaruga, perché veniva bene il femminile, come se fosse un'acida zitella, molto astuta. Achille, vigoroso e sempliciotto, naturalmente perché introduce questi? Perché si parte dal famoso problema di Zenone di Achille della tartaruga, con la crisi di Toscano, che è uno dei dialoghi. Poi c'è un granchio, questo non mi ricordo perché il granchio. Formichiere da una parte, che sarebbe un formichiere, veramente un dottor formichiere, cioè molto famoso, che coltiva il formicaio mangiando le formiche. E Furio Caio, che dovrebbe ricordare anche lui formicaio, barone di Monte Formica, è di formicaio. Qui dietro ci sta tutto un problema, che è quello dei livelli di aggregazione. Per esempio adesso uscirà un libro su un superorganismo, se un insieme di organismi, proprio un formicaio, termitario, eccetera, se sia a sua volta un vivente. Qui si entra anche su due dove nel blockword. Il blockword, chi ha la nostra, tutto lo sai che il blockword, Terrivino grande, insomma, questa è l'intelligenza artificiale classica, possiamo fare e saltare su questi. Turing Babbage è l'autore, insieme col granchio e la tartaruga e l'Achille sono sei personaggi che nel dialogo finale, che è un pezzo di fuoco d'artificio, ricercare a sei voci, che è ricercare Pacchiano, mettono su questa strana struttura verbale e concettuale, e l'ultima riga di questo dialogo, ricercare a sei voci, tocca all'autore e finisce lì il libro, però in testa al libro c'è scritto autore due punti e comincia il libro. Esattamente come noi adesso stiamo facendo, che quando sarà finito due punti e rifare un'altra volta. L'abbiamo fatta apposta. Ma che dice questo libro adesso che lo abbiamo presentato? Allora esprimo un'opinione recente. Secondo me adesso si può vedere questo libro, 30 anni ancora dopo, 79-2009, come 30 anni, 48-79, so, più o meno, delle idee della, dei temi della cibernetica, che di sua natura non è mai diventata una disciplina, ma ha informato di sé l'informatica, l'intelligenza artificiale, la scienza cognitiva. E un altro tema interpretativo, un arricchimento rispetto alle idee di quella temperie splendida degli anni 40 in cui nacque la teoria dell'informazione, la teoria delle grammatiche trasformazionali, la cooperazione di Chomsky e Schützenberger, tra Chomsky e Noam Chomsky, ho detto Chomsky, che dico il sistema del ruolo centrale. Qualche volta me ne accorgo, qualche volta no. Lì naturalmente l'elemento centrale era l'elemento di letterazione, il feedback. E infiderei, come ho scritto qui un po' scherzosamente, per fare un passo dalla materia verso la mente, perché c'è tutto il problema della finalità o della teonomia che anche degli oggetti fisici, ecco perché la fisica è importante, avevano uno scopo. Ora c'è lo strano anello. Questa è la novità di Hofstadter. Tra virgolette basse c'è una sua citazione. Il fenomeno dello strano anello consiste nel fatto di ritrovarsi inaspettatamente salendo o scendendo lunghi gradini di qualche sistema gerarchico al punto di partenza. Uno sale, sale, sale e sta in basso. Ma questa idea del serpente uroboro succede dappertutto. Insomma, però qui diciamo, diventa più tecnico e Hofstadter si appoggia, o forse tematizza, questo lo lascio decidere a voi, a strani anelli in altre zone, l'arte visive e la musica. È un fenomeno che, come dico qui, Escher ha disegnato, Bach messo in musica e Goethe l'ha posto al centro. Siamo alla diapositiva 14. Qui ho fatto un azzardo. Ho provato a vedere di, in maniera compendiosa, dire cosa è uno strano. E ne ho fatti tre tipi. Uno è quello a destra, logica, intitolato logica. Per motivi ancora una volta informatici, no, visto che ormai sono informatico, quindi devo adeguare la inettitudine della cosa, ci dovrebbero essere delle frecce che vi lascio immaginare tortuose tra, qui non c'è un puntatore, allora, leggiamo a sinistra, macchina hardware, vedete intestato? In testa, macchina hardware, poi c'è una freccia giù, molti livelli di storia della questione della macchina hardware. Allora dovete pensare che c'è una identificazione delle due macchine hardware che avrei disegnato con una bella freccia, però la mettete voi mentalmente, sarà più bella di quella che avrei potuto fare. Cioè, e vedete che allora si chiude l'anello, no? Perché macchina hardware, programmazione, molti livelli, e poi ci arriva la stessa cosa. Okay? Yeah. Il DNA scritto in basso a destra, al centro, è lo stesso DNA che sta in alto, okay? E ovviamente la AT, l'aritmetica tipografica, geniale modo per dire che il processo simbolico umano in realtà è un processo fisico fatto con dei simboli. E forse no, dentro la diatriba Lucas, è lo stesso AT che sta in destra. Okay? Allora, quello di destra, abbiamo a fianco a me il professor Giarretta, che ovviamente lo dirà straordinariamente meglio di me. La questione della biologia la lasciamo un po' così Oggi si parla di biologia come un tipo di calcolo, cioè che in realtà il fatto è quello che in ambito artificiale, intelligenza artificiale, si chiama multiple realization, realizzazione in molti modi diversi, però con una medesima funzionalità, e cioè che è tutto il meccanismo delle due specie chimiche principali della biologia, cioè le zuccheri, i bosi, il DNA, RNA, e le proteine, prima di quattro basi, proteine di 20 amminoacidi, siano semplicemente degli alfabeti simbolici con i quali accadono delle cose, che però hanno anche dei risultati fisici, cioè si costruiscono quelle delle membrane, oltre a fare dei processi. Molto interessante, perché c'è nella biologia questa stessa idea che noi abbiamo in informatica, che il processo o la struttura spesso sono la stessa cosa. Ma non ne parliamo, se no questa diapositiva 14 diventa una. Invece vorrei sottolineare quella a sinistra, perché si dice rapidamente, la macchina hardware, la CPU, Intel Inside, dimmi qualche nome di reclamo del CPU, insomma, Cerino, come si chiama quell'altro? Centrino, sono la vera cosa che calcolano. Tramite la programmazione, cosa si fa? Si fanno questi multilivelli che noi insegniamo, tu ti sarai sulla questione dei livelli, attraverso la geniale scoperta della macchina universale, cioè c'è un pezzo di hardware che solo lui permette di simulare tutto quanto. E quindi questo è molto mentale, perché noi immaginiamo le cose senza costruirle. Noi abbiamo la nostra vita più interessante, quella dell'immaginazione, e quella lì è tutta fatta virtuale. E poi su questa parola chi vuole ne possiamo parlare. Permanenza di questo. Beh, come esempio immodesto, scusatemi, ultima, questo è scritto piccolo, però c'è un pezzo rosso, chissà che si vede. No, no, no, i colori sono strano, blu, allora questo qui è il mio corso, no, il mio corso, per carità, ulteriori letture suggerite. Se qualcuno legge e vede che è il libro di Hofstadter, qui forse si vede, sì, si vede, sì. Hofstadter. Io lo gabello ai miei studenti dicendo singolare ma impeccabile presentazione del contenuto del corso e di molto altro ancora. E alcuni tra colleghi. E come vedete sta in ottima compagnia, Davis, Halmos, Herken, la macchina di Turino Universale. Io ho finito e voglio soltanto dire che il libro di Hofstadter, Hofstadter stesso, e noi, non così bravi come lui, siamo sopraffatti dalla bellezza di tutto questo. In definitiva, forse la risposta più interessante non è quella della verità, ma della bellezza. E noi abbiamo cominciato dallo studio della materia, delle cose fisiche, no? Ma io devo dire che io personalmente anche io ho cominciato così, e tutto questo è radicato in qualche cosa di fisico, di materiale, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, no? Però ecco, non si può negare che la cosa forse più interessante, che questo qui che mi voglio appuntare, che è una cosa qui, è che questo quest'insieme di studio materiale apre in maniere veramente impensate verso lo studio della mente, che è la cosa probabilmente che noi dobbiamo perseguire, ma in maniera completamente spregiudicata. Ecco, mi piace di finire con un invito allo studio della mente in maniera spregiudicata.